E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e sei minuti, ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. Settimana strana, settimana estiva sicuramente, ferragostana altrettanto, ma strana anche sui mercati, perché nonostante le continue o riprendere di continue frizioni, ieri abbiamo visto la Germania sulla Banca Centrale Europea, la Spagna che accelera il salvataggio del colosso bancario Bankia, che è in ginocchio, e oggi la Finlandia, dove il ministro degli esteri che dice sostanzialmente ci stiamo preparando alla fine dell'euro, poi viene smentito dal governo. Ma dicevo, nonostante tutte queste tensioni, in realtà le borse, per carità, gli operatori sono pochi, i titoli si muovono più facilmente rispetto a sedute normali, ma dicevo, nonostante queste tensioni, lo spread è, per fortuna, aggiungo io, in calo, sia quello italiano che quello spagnolo, e le borse vanno bene anche oggi, e vanno bene soprattutto i titoli bancari. Il Monte dei Paschi guadagna il 17%, UbiBanca il 6,5%, Mediobanca il 5,60%, Popolare di Milano il 5%, Banco Popolare più 4,45% per la precisione, Popolare Emilia Romagna più 3,46%, di nuovo forte Mediaset più 3,13%, molto bene anche Finmeccanica più 10,1%, e di negativo sostanzialmente c'è solo A2A, che ieri molto era cresciuto, meno 2,20%, Salvatore Ferragamo meno 0,76%. Su Monte dei Paschi ne parleremo, ci sono ipotesi di nuovi soci, movimento nell'azionariato. Finmeccanica non abbiamo visto notizie specifiche. Resta sullo sfondo il piano tagliadebito del governo, che potrebbe prevedere da settembre la cessione di una quota, ma sono cose che abbiamo già letto, discusso e visto in questi giorni. Non c'è una notizia dirimente oggi su Finmeccanica, eppure le borse vanno benissimo, va molto bene anche lo spread, molto bene, insomma, visto quello che era successo a luglio, diciamo che va bene. E infatti scende quello italiano sotto i 420 punti, poi risalito un po' a 430, mentre quello spagnolo è stabilmente sotto i 500 punti, 489 oggi per la precisione. Il mistero delle borse, mica tanto. Ieri molti operatori l'hanno giustificato con il fatto che se il salvataggio di Bankia arriverà prima del previsto, la prima tranche dei 100 miliardi che l'Europa ha promesso alla Spagna arriveranno prima del previsto, verrà scongiurato un rischio sistemico sul mondo bancario spagnolo, cioè non può fallire una banca delle dimensioni di Bankia, e rischio sistemico che poi si sarebbe allargato anche al resto delle banche europee. Chiede un ascoltatore al 349-238-6666. Si è fermata la speculazione? Troppa grazia, Sant'Antonio, rispondo io. No, non si è fermato niente. Evidentemente c'è chi pensa di trarre profitto, di andare a comprare titoli con valori molto bassi, ma prima di dire che si è fermata la speculazione aspetterei di essere arrivato, diciamo, almeno alla fine di settembre, e soprattutto dopo il 12 settembre, quando la Corte Costituzionale tedesca dovrà decidere, tutti immaginiamo che sarà un sì, se la Germania può partecipare al fondo salva stati. Questo è il fronte mercati e dati europei. Anche oggi però c'è un altro fronte, si chiama Ilva, ne hanno parlato a lungo i nostri GR, conferenza stampa e incontro dei vertici, in primo luogo i ministri Clini e Passera alla prefettura di Taranto, mentre vi sono altri sviluppi nell'indagine della Guardia di Finanza. Di Ilva parleremo a lungo durante questo programma. Tra l'altro oggi su Sole 24 Ore c'è una lettera del ministro Clini che parla della scelta del governo di ricondurre la questione IVA nell'ambito delle leggi nazionali, delle direttive europee, senza la necessità di provvedimenti straordinari, e ha anche ribadito Clini l'impegno a fare bene, a fare presto. Scontri, agitazioni fuori dalla anzi a Piazza dell'Immacolata, fuori dalla zona rossa, assemblea pubblica dei comitati delle associazioni cittadine con centinaia di persone. Ripeto, ci collegheremo anche in diretta per questo. Prima di tutto però le altre notizie in breve. Oro e petrolio, come sempre in apertura, devo dire che l'oro in rialzo a $1,618 l'once, il petrolio invariato a $95 al barile. Tra l'altro qualche tensione, anche se è chiaro che la notizia principale riguarda le vittime degli scontri nella miniera di Marikana in Sudafrica. 36 uomini, almeno 36 uomini ieri uccisi a colpi di arma da fuoco dalle forze dell'ordine. I minatori dell'azienda britannica Lonmin protestano dallo scorso 10 agosto per ottenere salari più alti. Ad oggi sono €400 al mese e condizioni lavorative migliori. L'azienda replica che alzando i salari i costi diventerebbero insostenibili in una fase in cui la domanda di platino è in calo. Lonmin denuncia anche che a causa delle proteste ha perso sinora l'equivalente di 15.000 once di platino e minaccia di licenziare gli operai se lo sciopero non verrà interrotto. Veniamo all'Europa. Allora, mentre il capo economista dell'OCSE, Piercarlo Padoan, oggi dice: attenzione, non credo alla possibilità di un'uscita ordinata dall'euro, cioè da una possibilità che l'euro si sciolga con un piano B tutto ordinato e con la fuoriuscita di alcuni paesi. In futuro, aggiunge Padoan, si può pensare a meccanismi finanziari, istituzionali, legali che aiutino i paesi a tornare indietro. Adesso il problema è tenere insieme i paesi. Nel frattempo, però, dicevo che la Finlandia oggi ha un po' gelato sangue nelle vene. Il ministro degli esteri Erkki Tuomioja ha detto che i funzionari finlandesi si sono preparati a un possibile collasso della valuta. È dovuto intervenire il ministro degli affari europei, sempre finlandese, Alexander Stubb, per dire la Finlandia è impegnata al 100% a sostegno dell'euro. L'ipotesi del ministro degli esteri non riflette la posizione del governo. Stiamo con gli europei, cioè con se stessi, perché anche i finlandesi sono europei, per migliorare la situazione della zona euro. E la Finlandia, lo sappiamo, assieme ad altri stati, l'Olanda, altri paesi del nord, è insomma con la Germania il paese che nutre maggiore scetticismo sulla possibilità di utilizzare il fondo salva stati, sulla efficacia del salvare i paesi, sulla correttezza nel intervenire in quei paesi che hanno difficoltà nei conti pubblici. Nel frattempo passa la proposta di unione bancaria fondata sulla supervisione unica da parte della Banca Centrale Europea, verrà proposta dalla Commissione Europea verso l'11 settembre, e cioè la Banca Centrale Europea, come avviene per tutte le banche centrali di tutto il mondo, avrà una supervisione sulle banche dell'area euro. È uno dei problemi dell'anatra zoppa di cui spesso parliamo. La Banca Centrale Europea, a differenza di tutte le altre banche centrali del mondo, non può stampare moneta e non garantisce sulle banche dell'area euro. La Federal Reserve in America stampa moneta e fa la banca centrale, come fa la Bank of Japan, come fa la Bank of England e via così. Nel frattempo in Spagna il tasso dei crediti di dubbia esigibilità, cioè crediti che le banche potrebbero non riavere indietro, soldi prestati che potrebbero non riavere indietro, è salito a un nuovo record, al 9,42% sul totale dei crediti. È una cifra obiettivamente altissima, vuol dire che quasi un euro ogni 10 prestato dalle banche spagnole potrebbe non essere ripagato alle banche stesse. Lo ha citato la Banca di Spagna ricordando che principalmente si tratta di crediti immobiliari, cioè mutui erogati per un mercato immobiliare che era completamente in bolla in Spagna e adesso è crollato, e quindi diventa poi difficile per le banche essere rimborsate da questi mutui. Pensate che i crediti immobiliari, cioè i mutui concessi per le case, sono saliti, possibilmente non verranno rimborsati, sono pari a 164 miliardi di euro in Spagna. La Grecia nel frattempo tra marzo e giugno vede il suo debito pubblico salire da 280 a 303 miliardi di euro e si è ridotto il valore delle obbligazioni e è cresciuto l'ammontare dei prestiti. E una buona notizia invece arriva da Eurostat, dall'Istat europea. È una buona notizia per l'Italia perché l'Italia, cioè assieme alla Germania, il paese che esporta di più, o meglio, che ha avuto i migliori dati sull'export, è proprio l'Italia. L'export italiano nei primi 5 mesi dell'anno è cresciuto del 4%, da 154 a 160 miliardi di euro. È lo stesso aumento della Germania, anche se la Germania esporta 3 volte tanto l'Italia, esporta 450 miliardi di beni e servizi, noi 150 miliardi. Però un dato così positivo si è avuto solo in Germania e in Italia. Le parole del Presidente del Consiglio Mario Monti: ha detto che l'evasione fiscale produce un grosso danno nella percezione del paese all'estero. L'Italia si trova in uno stato di difficoltà soprattutto a causa dell'evasione fiscale e siamo da questo punto di vista in uno stato di guerra. Ha applaudito all'idea degli eurobond, di obbligazioni emesse, di titoli di Stato emessi a carattere europeo, è un'idea articolata e intelligente. Daremo sostegno alla scuola anche nel settore non statale, l'intervista era a tempi. E poi il federalismo per noi è diverso, è un federalismo solidale. Noi siamo convinti che il federalismo debba essere solidale, cioè non può non tener conto delle diversità tra le diverse regioni e delle differenze territoriali. Allora, mentre ci fanno sapere da Taranto che dovrebbe iniziare in questi istanti la conferenza stampa attesa da quasi un'ora dei ministri, ha parlato già il governatore della Regione Puglia, Vendola, ha detto che il governo non ricorrerà alla consulta, non solleverà il conflitto di interessi con il GIP di Taranto che conduce le inchieste. Dicevo, questa è la dichiarazione di Vendola, sta per iniziare, vedo dalle agenzie della conferenza stampa. Vorrei partire con il primo tema, che è appunto l'ILVA, cercando in attesa di capire cosa uscirà dalla conferenza stampa. Sto guardando le agenzie, no, non vedo ancora parlare nessuno, se no ve lo faremo sentire in diretta. Dicevo, capire anche, ieri abbiamo criticato il silenzio, ci ha scritto oggi, ci ha cercato il segretario degli ambientalisti, dei Verdi italiani, dicendo che inaccettabile quello che abbiamo detto. Abbiamo solo detto che tanto clamore sulla TAV e la Val di Susa, poche manifestazioni abbiamo visto in questi anni per l'Ilva di Taranto, chiamando in corretà sia il Movimento dei Verdi, che ogni tanto a mio avviso così seleziona, sia i sindacalisti, dove erano i sindacalisti in questi anni, sia i vari presidenti delle regioni, dove erano i presidenti delle regioni di questi anni, che i ministri degli ambiente. Oggi ho visto un'intervista dell'ex ministro Prestigiacomo che dice: abbiamo chiesto 450 norme da osservare. Vabbè, però insomma, il messaggio è: non si può dire che è tutto colpa di un giudice a Taranto se si scopre che l'ILVA ha continuato a inquinare. Cerchiamo una soluzione che non blocchi chiaramente gli stabilimenti. Andiamo subito con questo tema. In attesa appunto della conferenza stampa, oggi su Sole 24 Ore un economista, nostro ospite già altre volte, mi riferisco al professor Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia internazionale alla Statale di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, dice: insomma, il caso Ilva va risolto tra emergenza e futuro, ma il governo dovrà avere un atteggiamento che sarà un misto, o due vestiti per essere precisi, quello del pompiere e quello dell'ingegnere. We'll be right back. Professor Giorgio Barbanavaletti, buonasera. Buonasera a voi. Sente che sono un po' ogni tanto esitiamo perché stiamo cercando di capire quando sì, ho detto GIP, chiedo scusa, il giudice del PM di Taranto, non il GIP, rettifico, però stiamo cercando di capire se sta iniziando la conferenza stampa perché non c'è chiaro. Vengo al suo commento di oggi su Sole 24 Ore. Cosa vuol dire il governo che deve fare il pompiere e cosa vuol dire il governo che deve fare l'ingegnere? Ma mi sembra che questo è un po' un destino di tutto il governo Monti, ma che si applica molto bene al caso dell'Ilva, nel senso che chiaramente c'è una situazione di emergenza da gestire in questo momento, che è quella di cercare di risolvere il problema ambientale e il nodo che è venuto fuori in questo momento, che ovviamente è un nodo che è accumulato da anni di incurie e di problemi, ma insomma è un nodo grave in questo momento, quindi cercare di risolverlo continuando a far però funzionare gli impianti, perché mi pare che fermare gli impianti in questo momento sarebbe un danno gravissimo non solo all'azienda ma all'industria siderurgica per il nostro paese e all'economia italiana nel suo complesso. E dall'altra però lavorare come un ingegnere, cioè lavorare a delle misure strutturali di lungo periodo che permettano in qualche modo di risolvere questo nodo che è, diciamo, il rapporto tra il lavoro da un lato e la tutela, la garanzia del lavoro dall'altra, da un lato, e dall'altro la tutela ambientale e l'impatto ambientale delle attività economiche, che ovviamente sono cose che non possono essere risolte nell'emergenza di un momento, di un caso solo. Sì, c'è un passaggio nel suo commento, professore, che mi ha particolarmente colpito. Quando dice sostanzialmente il governo deve fare anche l'ingegnere, cioè deve capire intanto che una Taranto 2 non si ripeta sul territorio nazionale, e al di là delle responsabilità degli inquisiti, adesso leggerò anche alcuni sviluppi dell'inchiesta, lei dice, insomma, l'Ilva sostiene di aver investito oltre 1 miliardo negli ultimi anni nel miglioramento dell'impianto ambientale. Oggi appare dalle indagini che questi investimenti non fossero sufficienti o adeguatamente efficaci. Ma non è chiaro il parametro, quale sia il parametro di riferimento rispetto a cui valutarli. E aggiunge, dovrebbe essere molto facile, molto più semplice misurare un danno ambientale perché hai dei sistemi di misurazione, c'è una controversia sul lavoro, c'è un giudice, ci sono gli avvocati di parte, è più un atto anche speculativo e dialettico, ma in questo caso dovresti avere delle tabelle, dei riferimenti numerici e dire, beh, avete superato di questo livello le emissioni nocive di questa sostanza. Cioè, mi sembra un po' strano che nel 2012 non si riesca a capire quanto sta inquinando l'Ilva, no? Esattamente, sono perfettamente d'accordo con lei, cioè trovo che questo è proprio un caso in cui, diciamo, la giurisprudenza dovrebbe potersi appoggiare a un'evidenza scientifica, a dei numeri certi, e quindi rendere la giurisprudenza stessa ancora più certa, mentre invece in questo caso mi sembra che la gravità del problema sia soprattutto una ridda di interpretazioni su un concetto, che è il concetto di disastro ambientale, che è invece un concetto che dovrebbe essere oggettivo, quantificabile, osservabile e misurabile. Invece questo non è così, evidentemente. Ecco, resti con noi, professore, perché sta parlando adesso il ministro Clini. Iniziata la conferenza stampa, se riusciamo a alzarlo, grazie. Con la Regione Puglia e con il consenso di Ilva, e questo è un fatto nuovo, ed è, direi, la prima volta che questa grande impresa italiana accetta di lavorare con un approccio europeo. L'approccio europeo è esattamente questo: le amministrazioni pubbliche individuano le tecnologie e negoziano con l'impresa la fattibilità dell'impiego delle tecnologie, in particolare in relazione. Niente, saltano i collegamenti anche per quello che riguarda la diretta da Taranto, e va bene pure questo. Mi interessava sentire questo passaggio del ministro Clini, perché era un passaggio in cui annunciava un accordo, una disponibilità dell'Ilva, se ho ben capito, a collaborare con il governo. Vedo che Ferrante ha appena annunciato che ci sono 146 milioni che verranno destinati all'ambiente, una disponibilità del governo dell'Ilva con il governo a ragionare sul tipo di tecnologie da implementare o da impiantare to cure. Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, dopo l'incontro con il ministro Taranto, ha dichiarato, lo anticipavamo prima, che il governo non ricorrerà alla consulta contro la decisione del GIP di Taranto di fermare la produzione dell'Ilva, definendo comunque positiva la decisione del governo di non arrivare ad un conflitto nelle forme più aspre con la magistratura. Professor Babanavaretti, mentre vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, lei però adesso Clini stava dicendo cercheremo, c'è un accordo di massima per avere una maggior collaborazione con l'ILVA e dialogo e comunicazione. Ma secondo lei come mai si è arrivati a non sapere, a questa impasse un po' paradossale in cui non si riesce a sapere quanto emette e quanto grave siano le emissioni dell'ILVA? Adesso da un punto di vista tecnico è difficile capire quanto poi questi numeri o questi impatti effettivamente possano essere mascherabili o quanto semplice sia tecnicamente arrivare a queste misure. Io ho l'impressione però che più che altro ci sia stato un cumulo di errori e diciamo un cumulo di decisioni che sono state prese, ma non negli ultimi anni, in tutta la storia dell'ILVA, che ovviamente per sua natura è un'azienda altamente inquinante, che ha operato in anni in cui i controlli ambientali erano molto più bassi, quindi c'è un sedimento diciamo di azioni inquinanti che proprio va indietro in moltissimi anni e quindi è molto difficile capire da un lato quello che è effettivamente probabilmente l'impatto delle attività svolte oggi e isolare l'azione del management attuale rispetto a quello che è stato l'azione del management al pregresso, diciamo. Pregresso. Siamo in grado di sentire adesso il ministro Passera di nuovo in collegamento al Taranto. È stata una giornata utile, è stata una giornata, una tappa importante, incontri come questi ce ne saranno altri anche qui a Taranto, il governo e non soltanto i ministeri dell'ambiente e i due ministeri da me rappresentati. Ecco, intanto lo state vedendo, ha preso la parola il ministro per lo sviluppo economico, Corrado Passera, lo sentiamo. C'è la Paola Severino, ci sono gli interni, c'è l'istruzione e la ricerca, quindi è il governo nel suo insieme che si sente impegnato e che si sentirà impegnato fino alla soluzione dei problemi. In tutti gli incontri di oggi è emerso un chiaro, forte consenso sulla questione di fondo che voi qui avete sentito mille volte, magari non tutti quelli che ci ascoltano ci ascolteranno, che non ci può essere, nessuno può essere messo di fronte alla scelta tra salute e lavoro. E qui come governo rappresentiamo sia coloro che temono per il loro lavoro, sia coloro che temono per la loro salute, ma anche rappresentiamo le aziende che nella ricerca della massima compatibilità e sostenibilità ambientale devono essere concorrenziali sui mercati internazionali e, lasciatemi dire, anche l'interesse nazionale. In questo senso auspichiamo che vengano prese decisioni che siano irrimediabili nelle loro conseguenze. Ci sono ancora molti punti controversi, ci sono ancora molti tentativi da fare prima di prendere decisioni, tipo quella per esempio di spegnere, che vorrebbe dire chiudere, prima di prendere appunto decisioni di questo genere. La collaborazione, lo diceva anche Clini, con la magistratura è e sarà totale. Se qualcuno ha cercato di disegnare un paesaggio diverso, un'attitudine diversa, questo sicuramente non lo è. Questo non vuol dire non poter discutere o non poter commentare in taluni casi decisioni che ci possono trovare più o meno d'accordo. Anche col procuratore, che avremmo avuto piacere di vedere oggi, comunque siamo rimasti d'accordo che ci vedremo a breve. Parliamo un attimo dei punti principali che sono emersi oggi, degli impegni che ci siamo tutti presi l'un l'altro e un po' anche dei prossimi passi. Certamente parlando della situazione si è ribadito quanto questa città abbia patito dei costi sia ambientali che nei confronti della salute importanti in questi anni, però è anche emerso da molte parti e in maniera convincente che c'è ancora da chiarire fino in fondo fino a che punto sono state rispettate o non rispettate le normative italiane ed europee via vicenti. In diretta da Taranto il ministro per lo sviluppo. Come sentite, stiamo utilizzando anche vari canali perché ci sono problemi di collegamento proprio su Taranto con tutti i principali network. Il ministro Passera ha parlato di tappa importante e ha auspicato poi un incontro anche con il procuratore capo di Taranto, però tappa importante per quello che riguarda il tentativo del governo di tenere assieme, ha ribadito Passera, le due esigenze, quindi la salute, la tutela della salute dei cittadini che abitano nelle zone adiacenti all'IVA, comunque dei cittadini di Taranto, con la necessità di mantenere la continuità produttiva dello stabilimento Ilva. Ricordo, all'Ilva lavorano 15.000 persone, ma 5.000 sono quelle che lavorano direttamente nella parte cosiddetta a caldo, quella dove obiettivamente dovrebbero esserci, dove c'è il rischio molto forte di chiusura. 146 milioni per l'ambiente. Mentre il professor Babanavetti è ancora in collegamento con noi, io vorrei far ascoltare però che cosa ha detto oggi anche l'ex presidente, l'ex commissario designato, perché poi gli è stata levata la delega, Ferrante, a proposito di vari elementi, tra cui il fatto che dall'azienda all'IVA arriveranno 146 milioni di euro per l'ambiente. Ferrante attualmente è presidente dell'ILVA. Sentiamo Ferrante. ILVA ha già impegnato e finanziato 90 milioni di euro ed ha in animo di impegnare e finanziare nel prossimo futuro, direi nell'immediato prossimo, altri 56 milioni, che significa un impegno complessivo di 146 milioni di euro per l'ambiente. Ferrante ha anche aggiunto che al governo è stato chiesto dall'ILVA la certezza e la chiarezza normativa per continuare a Taranto e continuare a operare a Taranto, e poi ha accolto con favore l'ILVA l'apertura di una nuova procedura per l'AIA. L'AIA è l'autorizzazione integrata ambientale, quella che deve dare il Ministero dell'Ambiente. Di nuovo in collegamento con il Ministro Passera, la sua conferenza stampa da Taranto dopo l'incontro assieme al Ministro Clini per la vicenda ILVA. Ma anche in linea con tutte le normative. L'azienda oggi è venuta con una serie di impegni anche superiori alle aspettative. Tutto quanto era stato indicato nelle precedenti riunioni è già stato fatto proprio dall'azienda, con un piano di investimenti già finanziato, ben preciso, con delle scadenze non ovvie. Questo è l'ennesima dimostrazione di ciò che Clini diceva prima, di un'attitudine che Ferrante in persona efficacemente, di volontà di collaborazione, di volontà di trovare la maniera per far uscire l'azienda dalle difficoltà e anche dall'isolamento che nel quale si trovava. Aver visto, aver sentito questo impegno, questa volontà di lavorare insieme sull'AIA, questo già impegno nell'incertezza della situazione nella quale ci troviamo a fare quegli investimenti sui controlli, sui monitoraggi, sulle videosorveglianze e anche ai comportamenti necessari, per esempio, a gestire le giornate di vento, che credo abbia fatto piacere a tutti. Istituzioni, governo e regione. Come sapete, il protocollo d'intesa è un protocollo d'intesa non minore, nel senso che sono quasi 400 milioni di euro, 396 milioni di euro. Questo è diventato un decreto, questo decreto ha creato gli strumenti anche di attivazione veloce, di attivazione concreta attraverso il commissario che verrà nominato in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, o perlomeno questo è il nostro programma, e contemporaneamente si sono aggiunte una serie di cose che voi conoscete, per esempio sul porto. Non dimentichiamoci che il mio ministero, quello delle infrastrutture, molto ha fatto perché Taranto diventasse il terminale italiano del corridoio Helsinki-La Valletta. Questo si porta dietro una serie di investimenti importanti, la cosiddetta piastra logistica e tutto ciò che ci va intorno. Se prendiamo i quasi 200 milioni di investimento sul porto e sul mare, diciamo così, sul porto che il protocollo d'intesa prevedeva, e aggiungiamo gli oltre 200 della piastra logistica, cominciamo a parlare di investimenti sulla portualità tarantina di grande importanza. Quindi quasi 400, poco più di 200, oltre 600 non basteranno probabilmente, ed è la ragione per cui insieme a Corrado Clini andremo a lavorare per trovare il più possibile finanziamenti di varia provenienza o collegati a fondi comunitari. Non è una cosa facile, ma abbiamo già individuato una serie di filoni da prendere. I fondi di Kyoto, di cui forse ha accennato lui prima e su cui comunque Corrado Clini è particolarmente impegnato, per cui vedete che si muove concretamente la macchina che ci eravamo proposti di mettere in moto. conclusioni di una giornata effettivamente concreta e produttiva è che se ci sono colpe del passato che siano perseguite, ma guai a far pagare al futuro di questa città colpe che magari sono già in corso di risoluzione o che comunque possono essere risolte adeguatamente. Dobbiamo fare in modo che questi impianti siano perfettamente in linea nei tempi più adeguati con le normative italiane ed europee, dobbiamo far di tutto per evitare scelte che invece irrimediabilmente poi renderebbero impossibile un futuro di crescita a questa parte del manifatturiero italiano molto importante. Su questi temi abbiamo raccolto un consenso molto, molto vasto. Il senso un po' di tutto il discorso di oggi, proviamo a vedere che da una crisi oggettivamente molto pesante di questa città e di questa azienda non ne possa venire, proprio perché c'è l'impegno di tutti, un'opportunità di sviluppo orientato al nuovo, di sviluppo legato anche a tecnologie dell'ambiente, gli investimenti e i fondi per esempio delle smart cities, delle smart areas che sono stati messi a disposizione di Taranto vanno in questa direzione. Insomma, abbiamo percepito diffuso e abbastanza profondo questa volontà di evitare che una crisi diventi crisi definitiva, ma possa trasformarsi in una forma di opportunità. È chiaro che ci sarà da lavorare per parecchio. Si è parlato per esempio di un accordo di programma pluriennale in cui tutte le aziende coinvolte nei problemi di Napoli e tutti i ministeri e tutte le amministrazioni locali che possono avere un ruolo si impegnino per un periodo lungo, come è stato fatto per esempio per Marghera in condizioni diverse ma comunque con delle assonanze, e quindi anche questo dimostra la volontà di impegnarsi fino in fondo. Ringrazio anch'io voi. E abbiamo sentito la conferenza stampa del, con qualche difficoltà di cui mi scuso, di carattere tecnico ma non dipendeva da noi, la conferenza stampa del ministro Passera e un pezzo anche di quella del ministro Clini, quindi sviluppo economico, infrastrutture per Passera e ambiente per Clini. Dalla prefettura di Taranto, dove c'è stato un lunghissimo vertice sulla vicenda Ilva, sintetizzo rapidamente: il ministro Passera ha detto che c'è una totale collaborazione del governo con i magistrati, ha aggiunto che il tentativo è quello di avere un approccio europeo sull'intera vicenda, che esistono 400 milioni già annunciati per l'Ilva più altri 200 milioni per quello che riguarda la piattaforma del porto di Taranto, che probabilmente non basteranno, e quindi si è impegnato a cercare altre risorse. E ancora la frase forse più importante, secondo me, oltre a quella della totale collaborazione con i magistrati, quella che riguardava gli impegni presi dall'Ilva, che sono stati anche superiori alle aspettative del governo. Passera poi ha ricordato che il 40% dell'acciaio nazionale è di produzione dell'Ilva. Vedo ancora altre agenzie. Ecco, abbiamo un pezzo dell'intervento di Corrado Clini, purtroppo si sente in maniera non con una qualità così eccezionale, quando il ministro ha confermato che quanto detto questa mattina dal presidente dell'Ilva Ferrante, che l'Ilva si accingerebbe a investire 146 milioni per l'ambiente. La risposta di Ilva è positiva. Oggi Ilva ci ha comunicato, come sapete già, non solo l'adesione a questo impegno, ma anche l'impegno già preso di investire 146 milioni in interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni nei punti più critici del processo, che poi sono quelli che abbiamo individuato congiuntamente con la Regione Puglia, le emissioni di polvere, le emissioni di benzo a Pirè. Così appunto il ministro Clini, ripeto, qualche problema di collegamento c'è stato. E ancora sulla volete sapere sui soldi, Passera ha solo confermato che ci sono i 396 milioni, però adesso siamo in collegamento con uno degli inviati del Sole 24 Ore a Taranto in prefettura, Mariano Maugeri. Buonasera Mariano, mi senti? Sì, ciao, buonasera. Allora, abbiamo ascoltato a pezzi, perché ogni tanto cadeva il collegamento, l'intervento del ministro Pasta e del ministro Clini. Mi sembra di poter dire massima collaborazione con i magistrati, l'ILVA che si è impegnata in maniera anche superiore alle attese, però chiedono gli ascoltatori di poi concreto, il titolo qual è? Non ridere così. Il titolo è che è stata superata la fase conflittuale, così sembra, la nuova AIA a utilizzazione integrata ambientale recepirà tutte le prescrizioni della GIP Todisco, Patrizia Todisco, e il governo ha annunciato che con ogni probabilità ritirerà il conflitto di attribuzione davanti alla Consulta, appunto sul chi dovesse fare che cosa, e quindi hanno sotterrato l'ascia di guerra, e c'è un progetto alla quale l'azienda parteciperà in primo piano e per la prima volta. Perché fino ad oggi, forse questo è sfuggito, l'ILVA aveva fatto ricorso sia alla vecchia AIA con le 462 prescrizioni, sia alla nuova AIA che aveva proposto il ministro Clini. Ecco, questa politica, queste scelte ostruzionistiche sono venute meno. Da oggi in poi l'azienda collaborerà nuovo disegno di politica industriale, metterà già sul piatto 146 milioni di investimenti per ridurre l'impatto di inquinamento, e la nuova AIA, a sentire Clini, che anticipa la nuova normativa comunitaria che dovrebbe entrare in vigore nel 2016, ma che l'ILVA appunto anticiperà al prossimo anno, azzererà addirittura le emissioni nocive. Almeno questo è l'obiettivo. Allora, l'AIA, ricordiamolo, che non è la capitale olandese, ma è l'autorizzazione di impatto ambientale. Cioè, autorizzazione integrata ambientale, sì. È quella che deve dare il ministero dell'ambiente, no? Di sotto ci sono delle regole per spiegare a tutti, dei paletti che il ministero la patente a funzionare. Senza AIA la fabbrica non può accendere, non può funzionare, esatto, deve avere via libera del ministero dell'ambiente, chiamiamolo, esatto, così, che pone un insieme di regole e di norme da rispettare. Tu ricordavi che sia la vecchia autorizzazione, quella del ministro Prestigiacomo, 470 prescrizioni, che quella dell'attuale ministro Clini furono respinte dall'ILVA, cioè vi fu un ricorso. Adesso chiaramente il clima, si fa per dire, è cambiato in peggio per l'ILVA, c'è un'indagine della magistratura in corso che si è ampliata oggi con nuovi elementi, perché la Guardia di Finanza punta a smascherare le attività di concussione e corruzione che in questi anni avrebbero falsato la regolarità dei controlli. Figura chiave l'ex responsabile dei rapporti istituzionali Girolamo Archinà. Archinà avrebbe tentato, secondo le carte della Guardia di Finanza, di ammorbidire la commissione proprio dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, i contatti con il dottor Palmisano, funzionario che rappresentava la regione presso il ministero, ma di fatto, secondo l'accusa, agiva per l'ILVA. Per cui c'è tutta la parte dell'indagine della magistratura, ma quello che riguarda la parte economica e quindi produttiva dell'impianto, Mariano, tu dici lo scontro frontale che abbiamo visto, magistratura e magistrato di GIP di Taranto e governo, sembra aver trovato una tregua, con la totale collaborazione con i magistrati, l'impegno dell'ILVA a investire 146 milioni di euro per arrivare a emissioni zero e il recepimento della nuova autorizzazione integrata ambientale dei rilievi fatti dal magistrato. Ho capito bene? Hai capito bene. C'è anche una questione di vil danaro, perché le cifre in gioco sono imponenti, enormi, e c'è a sostegno di questo accordo con l'ILVA anche un contratto di programma che dovrebbe prendere di petto tutta la questione industriale e produttiva dell'area di Taranto, con un rilancio del porto. Taranto è il nodo cruciale del corridoio Helsinki-La Valletta, ricordava il ministro Passera. Il governo nominerà nel prossimo Consiglio dei Ministri un commissario che si occuperà di questa parte. C'è anche una proposta di Confindustria, per bocca di Alessandro Laterza, che è il consigliere incaricato del Mezzogiorno, di fare di Taranto una smart city, un po' come Genova, è un progetto europeo. Ci sono tante azioni che convergono verso un unico grande progetto. Ecco, i 600 milioni, lo dicono tutti, da Vendola ai ministri, non bastano, per cui bisognerà raccattare altre centinaia, appunto, di milioni. Però non ho capito una cosa, Mariano, i 600 milioni, lo abbiamo sentito anche dal ministro Passera, non basteranno. Però i 126 milioni che metterà a disposizione adesso l'Ilva, tu spiegavi che hanno come obiettivo di arrivare a un impatto quasi zero, no? No, hanno come obiettivo un progetto appunto per far partire il risanamento ambientale. Okay. Il disegno di Clini con la nuova AIA, di anticipare la nuova normativa europea che dovrebbe entrare in vigore nel 2016, se ci riusciranno, Bruxelles stanzierà molte centinaia di milioni se questo progetto andrà in porto, per cui gran parte del risanamento ambientale, questo lo diceva il ministro già in commissione attività produttive il 14 agosto, sarà finanziato dall'Unione Europea, perché il governo, come sa, insomma, non è che siamo messi, non c'è una lira. quindi esatto. anche l'IVA la scarichiamo sui tedeschi, no? Esatto. Sto scherzando, esatto. Così si arrabbia un altro po'. Questa i deputati. È l'idea, poi da al di là fare, vedremo. Vedremo, vabbè, la nota, appunto il titolo è al di là, ripeto, delle inchieste della Guardia di Finanza che continuano a arricchirsi di nuovi elementi sui tentativi di falsare la regolarità dei controlli, però è importante vedere. Io non ho capito se sia una tregua o una tregua armata, Mariano. No, credo che l'Ilva abbia cambiato registro e la nomina di Bruno Ferrante, la cacciata di Archinà, sancisce un cambio definitivo di passo. C'è un progetto complessivo, ognuno deve giocare, come dire, un ruolo importante, e mi pare che poi fosse l'unica ragionevole soluzione. E dispiace, come dire, amareggia che tutto ciò sia arrivato con molti, molti anni di ritardo. Sì, se posso dire una cosa, con molti anni di ritardo, è perché, diciamolo tutto, perché si è mosso un magistrato. Perché sono qua, con buona pace degli dei verdi italiani che sono così arrabbiati con me, dei sindacalisti, del ministro Prestigiacomo, che dice di non avere una colpa, però di Ilva non si è mai più parlato finché non si è mossa la magistratura. Così vanno le cose in questo paese, cioè ci si poteva pensare anche un po' prima, e forse anche i proprietari dell'Ilva, visto che adesso sono così disponibili a ragionare, si poteva arrivare non agli avvisi di garanzia, ai domiciliari, all'inchiesta, all'intercettazione della Guardia di Finanza, e al rischio di bloccare il futuro di 5.000 persone più tutte le famiglie per inchiesta della magistratura. Grazie Mariano Maugeri. Grazie a voi. Ultimo tema, la borsa. Dicevo, nonostante le tensioni, mal di pancia tedeschi, finlandesi oggi, nonostante la Spagna anche oggi abbia tramite fonti europee confermato che anticiperà la richiesta di aiuti per salvare il colosso bancario Bankia, almeno 30 miliardi sui 100 stanziati dall'Unione Europea dovrebbero arrivare prima della data prevista. La data era inizio novembre, ma non ce la fa Bankia arrivare fino a quella data. Dicevo, nonostante tutto, ottima giornata anche oggi, più 1,30 a Milano, ma soprattutto fortissimi i titoli bancari. UbiBanca più 7%, Popolare Milano più 6,5%, Mediobanca più 6,15%, Popolare Emilia Romagna più 4,50%, Banco Popolare più 3,80%, e poi la vicenda Monte dei Paschi più 17,60% la borsa. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Partiamo subito dal Monte dei Paschi. Qui non si può parlare di rimbalzo, di effetto Spagna. Qui c'è qualcuno che sta rastrellando le azioni. Sì, perché comunque ieri il presidente Alessandro Profumo ha detto che la fondazione Monte dei Paschi, che oggi controlla l'istituto con il 36,8% delle quote, non potrà continuare a mantenere questa quota anche in futuro, in prospettiva dovrà ridurla, e quindi in qualche modo arriva più interesse sulla banca, perché ci sono varie ipotesi a quel punto che potrebbero aprirsi, da una fusione con un altro operatore, da una governance più condivisa rispetto a quello che succede oggi, dove la fondazione sostanzialmente ha il pieno controllo su Banca Monte dei Paschi, e per cui oggi il titolo ha guadagnato il 17,58%, come ricordavi tu prima, fra scambi anche molto elevati. Tra l'altro si vedono altre agenzie di passera, no, decisioni irrimediabili, ma di IVA abbiamo parlato abbastanza, mi sembra oggi. Dicevo, Guido, tra l'altro bene tutti i bancari, perché UbiBanca più 7, Pop Milano più 6,5, Pop Emilia Romagna più 4,5, cos'è, sempre l'effetto aiuti a Bankia? Sì, c'è questo e poi soprattutto pesa molto lo spread. Se, che è calato, sì. Se guardiamo da quando i titoli bancari hanno iniziato a risalire, e dal 24 di luglio, allora lo spread era 536 punti base, oggi è sceso di sostanzialmente 100 punti base, siamo sempre attorno ai 430 e in questo lasso di tempo le banche hanno tutte messo in cantiere incrementi per quello che riguarda le quotazioni azionarie superiori al 30%. È vero per, ad esempio, per Intesa San Paolo, per Unicredit, per Monte dei Paschi grazie all'Expo di oggi, ed è vero un po' per tutte le banche, ecco, tutte hanno molto sovraperformato l'indice FTSE MIB. Sì, tutte. Devo dire anche che titoli industriali. Qui veniamo alla seconda vicenda del giorno. Finmeccanica più 11,21%. Ripeto, d'estate è facile muovere i titoli, quando ci sono pochi operatori i volumi sono bassi. Però 11,21 a 3,75 euro. Sì, anche in questo... In questo caso, a differenza di Monte dei Paschi, sono veramente più labili le ragioni, anche noi abbiamo cercato di capire qualcosina nel corso della giornata. Alcuni citano il fatto che nelle indiscrezioni che sono comparse sul piano taglia debito del governo c'è la possibilità che vengano ridotte le quote del governo nelle sue grandi partecipazioni quotate, quindi Finmeccanica, Eni, Enel, e che questo possa aver spinto Finmeccanica. Un'altra ragione, una causa in Canada da cui comunque la società potrebbe ricavare meno di 2 milioni di euro, quindi è veramente un'inezia ed è difficile che questo possa spiegare un 11-21%, per cui insomma, mentre su Monte dei Paschi c'erano obiettivamente delle ragioni, su Finmeccanica è più difficile andarle a ritrovare. Sì, oppure magari su Monte dei Paschi c'è anche l'effetto che sottolinea un ascoltatore del Palio di Siena, visto che Monte dei Paschi scrivono a sede nella contrada del Montone che ieri ha vinto il Palio dell'Assunta. Io non so se va bene che è estate, se ci sia anche questo. Su Finmeccanica, appunto, le solite voci che ascoltiamo da settimane, ipotesi appunto che per far cassa se c'è da qualche asset, qualche controllata della Finmeccanica stessa. Mediaset, il caso di borsa della settimana, anche oggi più 3%, ha guadagnato oltre il 30% in poco più di una settimana, era scesa ai minimi storici. Insomma, qui i volumi erano fortissimi, invece non si può parlare di agosto e di ferragosto, volumi forti anche lunedì e martedì. Qui l'ipotesi sempre più forte è che ci possano entrare nuovi soci nell'azionariato. Sì, qui l'ipotesi è sempre che possa arrivare il famoso socio arabo, anche se poi dalle sale operative non si trovano mai conferme rispetto a questi ipotetici ordini di acquisto. Intanto comunque il titolo continua a guadagnare, è tornato su valori che non vedeva sostanzialmente da maggio, dai tempi della prima trimestrale, solo il 34% solo dal 3 settembre, sempre su queste speculazioni che per ora non trovano conferme. Alcuni hanno anche ipotizzato che potesse esserci la famiglia Berlusconi, la Fininvest ad acquistare, ma oggi più o meno ufficialmente hanno detto che loro non stanno facendo acquisti sul mercato, quindi rimane un po' il giallo di chi continua a comprare Mediaset. Ancora altri titoli oggi tra chi ha perso a 2A meno 2,16, Ferragamo meno 1, Campari meno 0,60. C'è poi la vicenda Camfin, perché oggi invece si è mossa bene dopo giornate di tensione, non solo su Camfin. Tra l'altro segnalo che il peggior titolo in assoluto è Arena meno 4,35 e il migliore è proprio il Monte dei Paschi più 17,60%, Camfin. Per quello che riguarda... C'è la finanziaria di controllo del gruppo Pirelli poi. Sì, è la società che sta a monte. Diciamo, della catena di controllo di Pirelli, oggi ha guadagnato il 6,51%, continua la tensione perché c'è questa disputa fra il presidente e primo azionista Marco Tronchetti Provera e l'alleato Vittorio Malacazza sul rifinanziamento del debito della holding, che è a una cifra di quasi 400 milioni di euro. Il mercato ormai scommette che nel braccio di ferro l'abbia spuntata Tronchetti Provera, che voleva un prestito convertendo e non un aumento di capitale, un prestito convertendo in azioni Pirelli, e che dovrebbe essere la soluzione più economica per Camfin, però ecco, insomma, in attesa di novità e di sviluppi, però il momento Camfin guadagna. Allora, un grazie e un auguro di buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Coro del Sole 24 Ore. Un grazie anche a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi, come sempre, per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana a voi tutti. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.